voi sapete bene che indisciplinato qual sono, non ho mai avuto un particolare feeling per la magistratura e i magistrati, soprattutto quelli del ramo inquirente, ma certe volte, poveracci, fanno pena anche loro. Pensate, per esempio, ai procuratori della Repubblica. Hanno la funzione, anzi hanno l'obbligo di promuovere l'azione penale, cioè di individuare e portare in giudizio i presunti responsabili dei reati, e si aspettano naturalmente che questa loro attività venga riconosciuta e incoraggiata mediante solleciti condanne dei malfattori. E invece non soltanto capita talvolta che l'imputato sia assolto, per fortuna succede di rado, ma sul loro cammino vengono accumulate continuamente difficoltà e ostacoli. Il Parlamento, per esempio, il Parlamento ha cercato di recente di tarpar loro le ali prescrivendo che i testimoni d'accusa siano sentiti durante il processo. Come se non bastasse la deposizione resa a suo tempo davanti agli inquirenti senza fastidiosi battibecchi con gli imputati e i loro difensori. E per fortuna che la norma relativa, il noto articolo 513, è stata spazzata via dalla Corte Costituzionale e il tentativo di aggirare quel pronunciamento inserendola addirittura nella Costituzione è stato affondato proprio questa settimana dal gruppo DS del Senato. Ma se i politici ogni tanto mostrano qualche salutare resipiscenza, ci pensano gli altri magistrati a complicargli la vita. Una recente sentenza della Corte Costituzionale a sezioni riunite, gente seria, su cui di solito si dovrebbe poter contare, ha prescritto che se durante il processo cambia uno dei giudici, e può succedere per malattia, trasferimento o altro, soprattutto se i processi durano anni, se durante il processo cambia uno dei giudici bisogna riascoltare di nuovo i testimoni. Così. Solo perché un giudice sta male e viene sostituito bisogna ricominciare da capo, come se per giudicare bisognasse vagliare le testimonianze di persona. Inaudito. Anche perché ricominciare da capo in certi casi significa lasciar scadere i termini e mandare a casa fior di colpevoli senza averli giudicati. In questi casi, di solito, i procuratori dotati, come si dice, di maggiore visibilità compiono una specie di pellegrinaggio, vanno dalle autorità, dalla stampa, dai media, protestano a gran voce, sottolineano il pericolo che incombe sulla giustizia. La sentenza di cui sopra, per esempio, ha costretto il dottor Caselli, cui la visibilità certo non manca, e oltre che a volare a Roma per conferire subito col ministro, a spezzare l'abituale riservo e intervenire addirittura a Maurizio Costanzo Show. E se è vero che costringere a simili tour de force un uomo tanto occupato è una vera vergogna, va detto che di solito quando il dottor Caselli si muove qualcosa a casa lo porta. Tanto è vero che appena due giorni dopo il tour de force in questione i giornali hanno potuto annunziare che contro quella che oramai si definiva senza mezzi termini la mannaia della Cassazione, Diliberto, che è il ministro, stava preparando l'ennesimo decreto salva processi. È strano, però. A prima vista uno potrebbe pensare che l'idea che chi accusa debba farlo in faccia all'accusato, dandogli modo di ribattere se ha qualcosa da ribattere, sia abbastanza sensata. Negli altri paesi civili, in quell'Europa in cui siamo tanto ansiosi di rimanere, si fa così. E l'altro principio, quello per cui chi giudica deve aver sentito lui le testimonianze piuttosto che farsele raccontare o farsele leggere dai verbali, e che sappiamo tutti che è un'altra cosa, a occhio croce sembra addirittura ovvio. E le scadenze, sì, ci sono le scadenze, ma in fondo non sono della roba messa via caso per favorire i marioli e ostacolare gli onesti. Fanno parte di un sistema di garanzie che serve a tutti, che servirebbe a tutti se lo si rispettasse con lo scrupolo che un sistema di garanzie merita sempre. E comunque un processo che dura degli anni è già qualcosa di non tanto accettabile, perché il processo dovrebbe essere soprattutto una procedura orale, un dibattito dal vivo tra le parti, e un'oralità che si stempera in 6 anni di interruzioni e riprese può lasciare un po' perplessi. Nessuno potrà mai eliminare il rischio che un giudice si becchi l'influenza tra un'udienza e l'altra, ma se i processi fossero ricondotti, diciamo così, a una dimensione umana, quel rischio diminuirebbe di molto. E non ci sarebbe bisogno di considerare una catastrofe cui affrettarsi a porre rimedio una sentenza tutto sommato ragionevole. Ma queste preoccupazioni evidentemente possiamo permettercele noi, che crediamo che la condanna debba pronunciarsi dopo il processo, non prima, e che concediamo a tutti gli imputati il beneficio del dubbio e la possibilità di essere assolti per un motivo o per l'altro. È difficile che tocchino la mente di chi è convinto che giustizia sia fatta solo se qualcuno viene condannato a qualche pena esemplare. Ed è difficile soprattutto che interessi chi fa l'accusatore di professione. Chi è convinto, si spera, che le accuse che formula siano fondate. Gli accusatori sono parziali per definizione. Come faccia la loro parzialità a conciliarsi con l'imparzialità che si richiede a ogni magistrato? Francamente è un mistero che non sono mai riuscito a capire. Oh sì, a proposito di magistrati, mi sembra che una certa considerazione la meriti anche quell'anonimo giudice per le indagini preliminari che, trovandosi di fronte a un giovanotto straniero sorpreso mentre cercava di rubare un'automobile prontamente associato a San Vittore, ne ha convalidato l'arresto perché l'accusato, nonostante fosse assistito da un interprete, si era rifiutato di rispondere. Solo al processo in aula, un po' dopo, come si apprende da Repubblica del 28 gennaio, il pubblico ministero d'udienza e l'avvocato difensore, l'ufficio naturalmente, si sono accorti che lo sciagurato di motivi per non rispondere ne aveva uno eccellente. Era sordomuto. E se voleste obiettare che non è compito del giudice per le indagini preliminari periziare le capacità di intendere o di farsi intendere degli accusati, vi risponderò che sì, è vero. Ma una qualche perizia, qualcuno, non so chi, su quel giovane l'aveva comunque compiuta, disponendo che fosse assistito in giudizio da un interprete di lingua araba, interprete di cui difficilmente il poveraggio avrebbe potuto giovarsi, anche se avesse saputo parlare benissimo, perché si trattava di un cittadino peruviano di madrelingua spagnola, e un interprete spagnolo in effetti a ultimo momento in udienza l'hanno fatto arrivare. Di equivoci ne possono capitare tanti, naturalmente, ma quello per cui di fronte a un presunto rapinatore sconosciuto e inintellegibile si convoca subito l'interprete di arabo mi sembra, nonostante tutto, qualcosina di più di un equivoco. Diciamo che anche questa è una testimonianza, la testimonianza del fatto che nessuno è esente da pregiudizi, nemmeno se fa parte della magistratura.